Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dico che il problema delle vaccinazioni è un problema che coinvolge tutti, anche chi viene da fuori, migranti che vengono dai paesi europei, magari dove alcune profilassi non si fanno, o che vengono da fuori Europa. Quindi il tema della profilassi vaccinale è un tema importante che va fatto e va praticato. Io non ho figli, se avessi figli li vaccinerei. E quindi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il presidente della Regione Veneto Zaia ha fatto, diciamo così, un passo indietro, perché ha sospeso, ha deciso di sospendere, e lo avete sentito poi con questo suo commento, il contestato slittamento di 2 anni per l'applicazione del decreto sui vaccini. Però ha deciso di interpellare il Consiglio di Stato su questo tema. Soddisfazione per il momento della ministra Lorenzin, poi vediamo come prosegue questa vicenda. Vi ricordo che domani, sia Effetto Giorno, sia io qui con Effetto Notte, dedicheremo un ampio spazio ai vaccini. Quindi, se avete delle domande, dei dubbi, delle perplessità, non esitate a scriverli sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure poi domani in diretta invece sul 349-238-6666, che è il numero anche per stasera, anche sempre per la diretta, per WhatsApp ed SMS. Se no, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Ci occuperemo stasera in particolare dell'uragano Irma, che sta facendo devastazioni incredibili nei Caraibi. Adesso si sta muovendo verso la Florida, ma anche verso la North Carolina. Sembra che sia molto più potente di quanto previsto. E cerchiamo anche di capire, ci collegheremo con gli Stati Uniti, cercheremo anche di capire come si formano queste terribili tempeste, perché si formano, c'entrano i cambiamenti climatici. Ne parleremo. E poi aggiornamenti sul caso della bimba morta all'ospedale di Brescia dopo essere stata ricoverata a Trento, e oggi c'è stata l'autopsia che conferma che si tratta di malaria, però ancora bisogna capire in che modo questa bambina è stata infettata. E poi, per alleggerire, parleremo di consumi, il rapporto della COP che fotografa il nostro modo di i nostri atteggiamenti, le nostre tendenze, i nostri gusti, il nostro modo di spendere, di consumare, anche di vedere la vita attraverso i nostri consumi. Quindi non perdete neanche un istante di Effetto Notte. E intanto, come sempre, prima di approfondire questi temi, vi riassumo brevemente la giornata. L'uragano Irma ha devastato i Caraibi, almeno una decina le vittime. Ora il potente ciclone punta sulla Florida, stato di emergenza anche in North Carolina. La bimba di 4 anni morta in ospedale, l'autopsia conferma, è deceduta per complicanze legate alla malaria. Vaccini, il Veneto sospende la moratoria di 2 anni, soddisfazione della ministra Lorenzin, Zaia interpella però il Consiglio di Stato. Costo del denaro, la BCE conferma tassi ai minimi, Mario Draghi dice sarà l'euro a dettare il ritmo di uscita dal quantitative easing. Stretta sui giochi, intesa tra governo e regioni, via libera se necessario a leggi regionali più severe. Università, la statale di Milano rinuncia a ricorso sul numero chiuso, iscrizioni aperte. Televisione, Milena Gabanelli si autosospende dalla RAI, no dice alla condirezione di Rai News 24. Partiamo quindi dalla corsa a quasi 300 km l'ora dell'uragano Irma, Caraibi devastati dal passaggio della perturbazione, con quasi il 90% delle isole di Barbuda che sono andate distrutte, morto un bambino di 2 anni, 1.400 sono senza casa, mentre a Saint Martin si contano 8 vittime e 21 feriti, una vittima registrata anche ad Anguilla. L'uragano Irma si sta dirigendo verso la Florida e il suo impatto, dice il governatore dello Stato, sarà peggiore del previsto. L'arrivo di Irma comincia a mettere in apprensione gran parte della costa orientale degli Stati Uniti, così dopo la Florida e la Georgia anche il North Carolina è in stato di emergenza, dove la tempesta dovrebbe arrivare la prossima settimana, seppur i venti dovrebbero per allora, si spera, essersi indeboliti. Oltre 1 milione di residenti di Porto Rico sono rimasti senza elettricità, ma possono dirsi fortunati perché l'uragano l'isola l'ha solo sfiorata. Barbuda, invece, ha raccontato il premier Brownie, è quasi inabitabile ormai. Absolutely devastating. Devastate anche le Antille francesi, dove la ministra francese appunto per i territori d'oltremare è arrivata oggi e non ha potuto quantificare vittime e danni ancora. Saint Martin comunque è irraggiungibile. Porto e aeroporto che si trovano nella parte olandese dell'isola sono inutilizzabili, ha confermato il primo ministro olandese Rutte. danni pesanti anche alle isole vergini britanniche e americane. Tremano ora Haiti e la Repubblica Dominicana, stato di emergenza a Cuba e in Florida, dove Irma dovrebbe arrivare tra venerdì e sabato. Riforniamo le pompe di benzina per permettere alla gente di andare via, ha detto il governatore Rick Scott. La contea di Miami si prepari al peggio. Non perdete tempo se vi verrà ordinato di evacuare. Possiamo ricostruire le vostre case, non le vostre vite. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi dicevo, tra poco ci colleghiamo con gli Stati Uniti per capire un po' com'è la situazione. Si parla di supermercati presi d'assalto, che c'è mancanza di benzina, e poi con un esperto anche cerchiamo di capire effettivamente perché si formano queste tempeste terribili e anche se dipende tutto questo da cambiamenti climatici oppure se, diciamo, sono questioni cicliche. Ora parliamo della bimba di 4 anni morta in ospedale. L'autopsia ha confermato il referto e la diagnosi ospedaliera di morte per encefalopatite malarica, lo riferisce il procuratore capo di Trento a proposito della comunicazione verbale ricevuta sull'autopsia effettuata a Brescia per la bimba morta lunedì dopo i ricoveri anche a Portogruaro e a Trento. Autopsia disposta, ve lo ricordo, nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo avviata dalla procura di Trento. La causa del decesso per Sofia è stata dunque proprio la complicanza cerebrale causata dalla malaria. Proseguono nel frattempo le indagini per capire come sia avvenuto il contagio, questo argomento sul quale torneremo stasera nel corso di Effetto Notte. Tema dei vaccini, dietro fronte, avete sentito all'inizio del governatore Zaia, il Veneto sospende quindi il decreto con la moratoria, quindi con la sospensione di 2 anni per l'applicazione delle norme sui vaccini, una scelta accolta con soddisfazione dalla ministra della Salute Lorenzin. Il quesito però, spiega Zaia, verrà portato al Consiglio di Stato. E intanto prosegue il viaggio di Radio 24 sui vaccini. C'è chi ha inviato lettere, chi mail, chi ha organizzato controlli a domicilio, chi invece consente di scaricare tutto online. Sui vaccini le regioni si sono mosse in ordine sparso. In Liguria, ad esempio, recapitate 55.000 lettere ai genitori dei bimbi da 0 a 6 anni con cui si attesta lo stato di adempienza vaccinale e si fissa un appuntamento per chi non è in regola. Mentre in Piemonte le lettere sono partite per le famiglie non in regola e chi non lo è non riceve nulla. In Campania è disponibile un database della anagrafe vaccinale sui siti delle ASL. Nessuna proroga poi da parte della regione Lombardia sui bambini dell'asilo non vaccinati come invece inizialmente annunciato. Un sistema che però in generale sta funzionando, secondo Sergio Venturi, vice coordinatore della Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni. Ci sono posizioni diverse, ci sono modalità differenti e sono sicuro che nessuna regione abbia scelto deliberatamente l'approccio burocratico. Come tutte le cose con le quali si parte il primo anno e le prime, in questo caso i primi adempimenti, sono una novità. Dopodiché dall'anno prossimo tutto il sistema avrà imparato a fare le cose per il meglio. C'è grande attesa, ma io sono convinto che da qui all'avvio delle scuole non ci saranno grandi disagi se non episodici. Poche anche le famiglie che saranno inadempienti, secondo Venturi. Io penso che al di là di quelle, chiamiamole così, ideologizzate, noi avremo sicuramente un incremento della popolazione vaccinale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. Quindi vi ricordo, domani questo appuntamento, sia Effetto Giorno che Effetto Notte, con le domande e quindi con gli esperti per rispondere alle vostre domande sui vaccini. Mandatele sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, il numero per WhatsApp e SMS in diretta, utilizzatelo. Poi invece in queste ore potete naturalmente scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio. Parliamo, diciamo, della decisione della Banca Centrale Europea. Sentiamo il Presidente Mario Draghi. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle nostre periodiche analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad attenderci che rimangano a livello attuale o più basso per un periodo prolungato e anche ben oltre l'orizzonte temporale del programma di acquisti. Riguardo le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che gli acquisti continueranno all'attuale ritmo mensile di 60 miliardi fino a fine dicembre 2017, o anche oltre, se necessario. E su questo sentiamo l'analisi di Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Mario Draghi ha lanciato due messaggi dopo la riunione del Consiglio della Banca Centrale Europea. Il primo è che la BCE è quasi pronta a ridurre gradualmente lo stimolo monetario con il quale ha sostenuto l'economia europea negli ultimi 3 anni e annuncerà i dettagli a fine ottobre. Da gennaio probabilmente gli acquisti di titoli, il cosiddetto QE, si ridurranno, ma i tassi di interesse resteranno bassi ancora molto a lungo, probabilmente per tutto il 2018. Il secondo è che il rialzo dell'euro e soprattutto la recente volatilità del cambio cominciano a preoccupare la banca centrale, in quanto possono rendere più difficile raggiungere l'obiettivo di inflazione, le cui stime sono state infatti ritoccate al ribasso. Riviste al rialzo invece dagli economisti della BCE le attese per la ripresa nel 2017. Non c'è dubbio però che nelle sue decisioni di ottobre la BCE terrà conto anche dell'impatto del rialzo della valuta. L'incertezza sul mercato dei cambi e i fattori geopolitici globali sono del resto oggi i principali rischi dello scenario economico, ha detto Draghi, il quale come sempre si muove con molta cautela. La politica monetaria, insomma, non smetterà di sostenere l'economia dell'Eurozona. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E anche per il presidente di Confindustria Boccia la crescita potrebbe superare l'1,5%. La crescita italiana quest'anno potrebbe raggiungere l'1,5% e addirittura superarlo. È il nuovo obiettivo al vaglio del governo, che sta lavorando alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Ad aprile il Ministero dell'Economia nel DEF ha stimato una crescita dell'1,1% per il 2017, ma ora la ripresa sembra più consistente e fa ben sperare. Una crescita superiore all'1,5% sembra possibile anche al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Secondo me potrebbe essere, hanno ragione, perché molte imprese stanno intercettando anche questioni esogene legate, diciamo, alla domanda di altri paesi che aumenta. Noi siamo un paese esportatore per definizione. La crescita, secondo Boccia, si rifletterà anche sul lavoro. È evidente che la prima fase è quella di riattivazione degli impianti, poi investimenti e poi occupazione. È il classico circolo virtuoso dell'economia. Confindustria intanto ha siglato con UbiBanca un protocollo d'intesa per l'innovazione digitale delle imprese e per promuovere la crescita dimensionale nonché l'accesso al mercato dei capitali. L'accordo è valido fino alla fine del 2019. L'obiettivo è aiutare le imprese a cogliere le opportunità del Piano Nazionale Industria 4.0. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è una notizia che riguarda la stretta sui giochi. Un'intesa è stata raggiunta oggi tra il governo e le regioni e i comuni sulle nuove norme che riorganizzano il settore dei giochi. Un settore che vale 10 miliardi di spesa. Saranno le regioni a decidere la collocazione degli slot, gli orari, le azioni per contrastare le ludopatie. In 3 anni verranno dimezzati i punti di gioco e i minori non vi potranno accedere. Si gioca di più in Lombardia, Lazio e Veneto. La regione più virtuosa invece è la Valle d'Aosta. La riforma prevede una serie di provvedimenti di salvaguardia come la certificazione del gioco, la norma antimafia e altre per la tutela della salute pubblica. Enza Loddo ha intervistato il sottosegretario all'economia con delega giochi Pierpaolo Paretta. Risultato molto importante, perché nel triennio dimezzeremo l'offerta di gioco, quindi con un contributo anche alla prevenzione e alla salute pubblica. Inoltre c'è una serie di provvedimenti che riguardano la lotta alla criminalità e altri alla tutela della salute, quindi un importante risultato. Contro il riciclaggio ci sono alcune norme che controllo del territorio e una che soprattutto prevede la riduzione del 500 a 100 euro della possibilità di inserire le banconote nel VLT in una delle tipologie di macchine. Vi ricordate in questi giorni le contestazioni per il numero chiuso in alcune università e anche facoltà che prima non erano previste? Bene, la Statale di Milano ha deciso di rinunciare al ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR del Lazio, che aveva accolto il ricorso dell'Associazione dell'Unione degli Universitari sull'introduzione del numero chiuso nelle facoltà umanistiche dell'Ateneo, appunto, della Statale di Milano. Quindi la Statale ha deciso di rinunciare a questo ricorso e ha aperto oggi le iscrizioni. La violenza contro le donne. Il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, questa mattina ha partecipato alla riunione plenaria per la presentazione del nuovo Piano Nazionale Antiviolenza del Dipartimento delle Pari Opportunità, con cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha firmato nel mese di giugno 2017 un accordo di collaborazione per sviluppare una strategia di supporto e prevenzione contro la violenza sulle donne. Uno degli elementi di novità nella nuova strategia di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne, ha sottolineato il presidente del CNR, è rappresentato dall'integrazione tra azione politica e ricerca scientifica. Ecco perché del CNR, ancora più importante se si considera, dice Inguscio, l'estrema gravità di un fenomeno che ha radici culturali profonde, riconducibili a un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia, così ha detto il presidente del CNR. Televisione, Milena Gabanelli ha detto di no alla RAI e si è autosospesa chiedendo l'aspettativa non retribuita. L'ex conduttrice e responsabile di Report non ha accettato l'incarico di condirettore del sito di Rai News. Per il Movimento 5 Stelle questo dimostra il fallimento del progetto del direttore Mario Orfeo. Solidarietà anche dai colleghi Berlinguer, Iacona e Sciarelli. Una notizia che riguarda la salute: è possibile bloccare il Parkinson, lo indicano dei test sulle cellule. È una cascata di eventi tossici a causare i danni ai neuroni coinvolti nello sviluppo del morbo di Parkinson. I ricercatori dell'Università Northwestern non solo l'hanno ricostruita, ma hanno anche identificato una sostanza capace di interrompere questa serie negativa e quindi l'avanzare della malattia. Il risultato è descritto sulla rivista Science e apre la strada a nuove forme di terapia. Poi vi ricordo questo, che domani col Sole 24 Ore esce anche la rivista How to Spend It, tutto sulla moda in occasione della Fashion Week che si apre a Milano il 20 settembre. Per chiudere, cinema, dalle notizie che arrivano dalla Francia alle ultime veneziane negli ultimi giorni di mostra. Il cinema non è solo un paese per giovani, non più. Arriva fino al Lido di Venezia la notizia partita da Parigi. Jean-Louis Trintignant, 86 anni, annuncia di avere un cancro, ma che non si fermerà perché, racconta, i momenti più felici della sua vita sono quando lavora. E di attori sopra i 70, sopra gli 80, di grande forza, non solo interpretativa, Venezia ne ha avuti tanti quest'anno. Dai Leoni d'Oro alla carriera Robert Redford e Jane Fonda, ai perfetti protagonisti del film Ella e John di Paolo Virzì, Helen Mirren e Donald Sutherland. On a motorcycle without a helmet, and who was that guy? Go to hell. You'll be with me in the handbasket, Mrs. Una storia in cui si racconta proprio la malattia e il desiderio di vivere liberamente e pienamente quanto si può. E ora arriverà l'ultimo italiano in corsa, Anna. La protagonista è Charlotte Rampling, 71enne ancora splendida, che per Andrea Pallaoro ha accettato di invecchiarsi un po'. E i capelli bianchi non sono più un tabù o una stranezza al cinema. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Bene, con il cinema direi chiudiamo questo riassunto della giornata, così tra poco cominciamo ad approfondire dei temi in particolare, a cominciare dall'uragano Irma. Per i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre opinioni, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure per un messaggio WhatsApp il numero 349-238-6666. Vedo già alcune domande, vi ricordo invece che per quelle su, qualcuno fa anche sui vaccini, quelle sui vaccini domani, potete già scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, però sul numero della diretta domani, ricordatevelo. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Cominciamo quindi a approfondire alcune notizie. Roberto Giordano sempre con voi per i vostri canali privilegiati per interagire qui con Effetto Notte sulla pagina Facebook del programma, oppure il 349-238-6666. Tra poco, se non avete acceso puntualmente alle 21, ricordatevelo di accendere a quell'ora per seguire tutto Effetto Notte sino alle 22. Vi ricordo tra pochissimo le notizie principali e poi parliamo appunto di questa tempesta terribile che sta devastando i Caraibi e sta facendo paura un po' in tutti gli Stati Uniti. Effettivamente appunto è una notizia questa in primo piano, l'uragano Irma che devasta i Caraibi, almeno ci sarebbero per il momento 10 morti, c'è proprio un incubo per la Florida. E poi la frenata del presidente della regione Veneto Zaia sui vaccini, sospesa per il momento la moratoria, però Zaia vuole portare il quesito sui vaccini al Consiglio di Stato e un ricorso alla Consulta. E poi la Banca Centrale Europea che lascia i tassi fermi. E per quanto riguarda le pensioni, forse arriva lo sconto per le donne con figli, questa è un'ipotesi. Per quanto riguarda televisione, la RAI con Gabanelli dice no a Orfeo e si autosospende, dice rifiuto di mettere la mia faccia in un prodotto che poi non è mio. E poi la notizia che riguarda la bimba morta in ospedale, la bimba di 4 anni, c'è stata l'autopsia ed è stato accertato che è morta per complicanze legate alla malaria. E irrompe anche qui effetto notte, per fortuna solo per via audio, l'uragano Irma, lo sentite proprio così dal vivo, sta purtroppo devastando i Caraibi, è una delle tempeste atlantiche più potenti mai registrate, pensate, che ha trasformato le isole caraibiche di Barbuda e Saint Martin in cumuli di macerie. Se vedete sui siti ci sono veramente delle immagini impressionanti. Secondo la Croce Rossa circa 1,2 milioni di persone sono state colpite finora dall'uragano, un numero che però potrebbe salire a 26 milioni di persone esposte a venti distruttivi, a piogge torrenziali, dalla Repubblica Dominicana, Haiti, Cuba. E pensate che Irma viaggia a una velocità fino a 295 km l'ora, ora va verso la Florida, ma c'è paura, c'è uno stato di emergenza anche in North Carolina. Però per meglio comprendere la situazione, il nostro Mario Platero, editorialista degli Stati Uniti del Sole 24 Ore, conduttore di America 24. Caro Mario. Eccoci, buonasera a tutti. Tu per fortuna sei fuori dall'area, no? Per il momento. Siamo fuori. Questa volta New York è stata risparmiata, però come sai abbiamo avuto in varie occasioni negli ultimi anni uragani di vario genere. Certo. Ma quello che adesso lo dicevi tu, proprio Irma, perché hai detto che in questo momento nei Caraibi. Mario, ti sentiamo male, non credo che sia colpa di Irma, forse non so se sei in un posto dove... Ecco, vediamo, sentiamo è adesso. Possibile. Sì. Non so se adesso è meglio o non è meglio. Ma, leggermente meglio. Così è meglio, facciamo le prove in testa. Sì. Comunque, io vado avanti. No, tu dicevi giustamente, in questo momento i Caraibi, sì, il 95%, ti ha detto... No Mario, scusami, ti sentiamo proprio male, vedi, pure se non c'è l'uragano evidentemente lì c'è qualche problema. Prova, facciamo le prove così in diretta, d'altronde siamo un po' lontani, diciamo. Facciamo le prove in diretta, sì, così funziona meglio, no? Sei al cellulare adesso, no? Mario. Sono il mio cellulare. E allora deve essere una zona, nonostante sia New York la grande mela, un po' poco coperta quella zona lì. New York non funziona bene, però guarda, se ti senti davvero male potete richiamarvi all'altro numero. Sì, va bene, allora Mario, sì, richiamiamo l'altro numero, grazie Mario, ti richiamiamo tra pochi istanti. Intanto saluto il nostro Paolo Corazzon, famosissimo meteorologo di Trebi Meteo. Caro Paolo. Sì, buonasera Roberta, eccomi. Ecco, tu sei bello e squillante. Paolo, dovete sapere, tra l'altro, oltre a essere un esperto di meteorologia, è anche un esperto di tornado e di uragani. Una volta ti ho chiamato che stavi inseguendo un tornado. Pensate esatto, i gusti, esatto, no, delle persone a volte. Comunque, insomma... Sì, ma guarda, a noi meteorologi affascinano questi eventi. È il questi tuo mestiere. Però, esatto, anche se mica siamo contenti quando capitano, però ci colpiscono. Quindi li studiamo con attenzione, un po' bocca aperta anche, perché sono impressionanti da un certo punto di vista. Paolo, senti, allora qualcuno si meraviglia, no? Sempre, perché poi il benaltrismo, cose di questo tipo, insomma. Però per esempio questo messaggio di Andrea dice: nel 1785, però forse è il 1780, guardavo, un uragano fece negli stessi posti 20.000 morti, quindi che c'entrano i cambiamenti climatici, forse invece più che il fenomeno in sé è la frequenza di questi fenomeni. La frequenza, bravo, esatto. Allora, in realtà appunto con uragani di categoria 4-5 abbiamo purtroppo sempre avuto a che fare, alcuni più famosi, tipo Katrina, quella del 2005 che ha colpito New Orleans, era di categoria 5. In un altro Mitch che nel 98, tu pensi che tra Nicaragua, El Salvador, Belize aveva fatto più di 20.000 vittime, anche caspita, quello, quindi ce ne sono state, come, però ci si è accorti che quando questi uragani violenti si verificano nelle annate calde, perché la connessione, il legame è abbastanza ovvio, cioè si alimentano con le acque calde dell'oceano, scaldandosi la terra si scaldano anche gli oceani, quindi c'è più energia che alimenta questi bestioni, diciamo così. E visto che la terra sta andando verso un riscaldamento, la paura è che la frequenza di questi fenomeni aumenti nei prossimi anni, e già la stiamo registrando, quindi sono sempre più numerosi e sempre più cattivi. Colpisce anche il fatto che 10 giorni fa ce n'è stato uno già di categoria 5, Harvey, con tutti i danni che ha fatto in Texas. Quindi È vero che non c'è un'equazione che dice cambiamento climatico, quindi uragani, però sotto sotto un legame probabilmente c'è. Senti, stavo vedendo che sta arrivando anche Cosè, quindi uno dietro l'altro praticamente. Brava, e tra l'altro ce n'è uno di cui non parla nessuno, Katia, che in questo momento è lì pure lui, è nel Messico, sta dando piogge torrenziali, pure quello, però è di categoria 1, non colpisce gli Stati Uniti, nessuno ne parla, ma insomma c'è pure quello. Cosè probabilmente non seguirà la strada di Irma, gli ultimi aggiornamenti dicono che gireva prima, quindi non dovrebbe né toccare le isole caraibiche né gli Stati Uniti, speriamo. Comunque Irma purtroppo deve ancora dare il peggio di sé, perché quando attraverserà la Florida la prenderà in pieno probabilmente da sud verso nord, attraversandola tutta, un percorso che forse nessun uragano in passato aveva mai seguito, e sono zone molto popolate, quindi la paura è che i danni saranno davvero ingenti. Mario Platero, hai sentito? Eccoci, infatti ho sentito, è vero, questo Irma ha preoccupato molto il governatore Scott, il quale ha preso ogni precauzione possibile. In questo momento è al largo di Haiti, poi ha avuto una piccola deviazione, perché vi dicevo prima, quando stavamo parlando, che ha distrutto, come hanno detto le fonti governative di San Martin, il 95% di San Martin, dice siamo distrutti al 95%, mi sembra strano, perché poi a San Martin ci sono anche delle costruzioni in muratura piuttosto solide. E infatti a questo proposito, scusa Mario, tutti abbiamo un po' questa immagine, no, delle case in quelle isole, ma anche negli Stati Uniti, delle case magari bellissime, delle ville, delle case coloniali, però fatte in legno e comunque materiali leggeri. Come mai continuano a fare le case con questi materiali? Ma questa è la tradizione, soprattutto c'è differenza, diciamo, tra le case più leggere dei Caraibi e quelle negli Stati Uniti, che in realtà sono molto solide e hanno sopportato vari uragani di vario genere, quindi non è che vengono sconquassate. Il problema, il pericolo c'è quando ci sono le inondazioni, come è successo con Harvey. Non è chiaro se Irma abbia la stessa potenza d'acqua, sembra di no. L'aspetto distruttivo di Irma è nella sua forza devastante, in questa forza 5 in questo momento, però la fortuna ha voluto che non abbia colpito direttamente Porto Rico e Haiti e probabilmente Cuba, cioè dopo aver colpito le British Virgin Islands e San Martin si è poi portata fuori al largo, passerà, in questo momento siamo vicini a Haiti e quindi nel giro di alcune ore passerà direttamente su Turks and Caicos, e dopodiché continuerà a restare sul mare, non toccherà Cuba, però è ovvio, è enorme, diciamo che ha la dimensione della Francia, quindi i venti poi girano e quindi arriveranno, ma il centro, l'occhio di questo uragano finirà per colpire direttamente Miami. In questo momento il percorso è definito dai computer e dovrebbe colpire direttamente Miami domenica alle 8 del mattino, quindi c'è ancora un po' di giorni naturalmente. A quel punto dovremmo essere scesi però a una categoria forza 4, quindi sarà un po' più debole. Dopodiché il percorso identificato, sentivo prima si diceva che poteva andare al centro della Florida, in realtà l'occhio del ciclone dovrebbe ritornare sul mare e poi ritornare sugli Stati Uniti e la Carolina del Sud, ma a quel punto saremo a un forza 3, saremo poi addirittura a una tropical storm, quindi a una tempesta tropicale. Il problema dunque più grave in questo momento per gli Stati Uniti è Miami, e vedrete cosa succederà anche a Turks and Caicos. Come popolazione sono delle isole molto piccole naturalmente queste. E Paolo Corazzon, un'ascoltatrice, Maria, scrive: i test nucleari, ghiacciai che si sciolgono, credo stiano spostando l'asse terrestre con conseguenze imprevedibili. Può in qualche modo tutto questo anche incidere sulla formazione di queste perturbazioni terribili? Lo spostamento dell'asse terrestre, io che ne sappia io, era verificato in occasione di quel tremendo maremoto che poi ha dato luogo allo tsunami che ha devastato tutto il sud-est asiatico il 26 dicembre di qualche anno fa, del 2004, esatto. Sì, sì. Però in realtà non ha grandi conseguenze a livello meteorologico, semmai sono i cambiamenti climatici che poi all'atto pratico portano a questa intensificazione dei fenomeni. Aggiungo, sottolineando tutto l'intervento che è stato fatto fino ad ora molto preciso, E è vero che questo uragano sta passando sopra, come latitudine, sopra Cuba, sopra Haiti, e punta diretto verso Miami. E questo purtroppo non è positivo, perché continua a rimanere sul mare e quindi continua ad alimentarsi benzina. Esatto. Questi uragani poi, quando toccano la terraferma, perdono rapidamente di intensità, però appunto il rischio è che arrivi a Miami ancora molto potente. Mario Pratero, a proposito di benzina, adesso metaforicamente invece andiamo sul concreto, è vero che c'è l'assalto ai supermercati e benzinai, che manca benzina in alcune zone? Ma che manca, diciamo che c'è un assalto un po' a tutti i beni essenziali, già, perché non si sa poi che cosa succederà. Per esempio, che ti posso dire, Porto Rico non è stata colpita direttamente da questo uragano, però il 70% dell'isola ha perso l'elettricità, non c'era più corrente elettrica per svariate ore. Quello che è successo in Texas, a Houston, ha spaventato enormemente. Insomma, gli allagamenti, le inondazioni che abbiamo visto a Houston, con i danni e con i morti, insomma, hanno come dire, generato un grido d'allarme per la Florida, per Miami, per le autorità. Già da oggi ci sono mille soldati della Guardia Nazionale schierati, continueranno ad essere schierati da qui ai prossimi giorni, il numero aumenterà di varie migliaia. E c'è una corsa ai supermercati, acqua da bere, più semplicemente, derrate alimentari. Certo, uno dice, ma cosa se ne fanno se poi devono lasciare le loro case? Si riempiono le auto, perché non sanno se devono dormire in macchina o no, quindi fanno il pieno, ma non solo fanno il pieno, perché poi sai, qui le distanze sono lunghe, fanno il pieno ma cercano di avere delle taniche in più per poter continuare ad andare via. Le code del resto che abbiamo visto sono inenarrabili, ci sono code di decine e decine di chilometri di auto che stanno evacuando la zona meridionale di Miami. La cosa che preoccupa è il danno economico, perché la combinazione di quello che è successo in Texas con quello che potrebbe succedere in Florida, insomma, avrà delle conseguenze per tutta l'economia americana. Immaginiamo. Paolo Corazzon, leggevo che è cominciata nel Mediterraneo la stagione nella quale diventano più probabili i fenomeni meteorologici simili agli uragani, li chiamano gli uragani mediterranei, però ovviamente di tutt'altra portata. Nulla di che, esatto. Non si possono proprio formare da noi uragani del genere, perché hanno bisogno di superfici oceaniche estese per formarsi. Da noi però si formano più piccoli ma simili, hanno appunto un nome TLC, Tropical Like Cyclone, cioè cicloni simili a quelli tropicali. In passato ne abbiamo avuti, tra l'altro ti anticipo che questo weekend arriva una perturbazione bella tosta da noi, nulla a che vedere, però le piogge autunnali stanno per raggiungere anche il Mediterraneo. E su questo infatti ci sentiamo domani con Paolo, rimani ancora un attimo. Invece con Mario Platero ti faccio una domanda così un po' imprevista, perché Gianfranco dice: vorrei sapere come mai non si parla dell'alluvione in India, che sta causando centinaia di morti. Forse le persone americane sono diverse da quelle indiane, è vero, fine agosto, insomma, ci sono state queste grandi inondazioni, che tra l'altro anche queste sono molto frequenti, con almeno 1200 morti, quindi vuol dire, insomma, America uber alles come sempre, l'America sempre l'ombelico del mondo, il resto non conta, forse perché lì... Ma guarda, in questo momento si sta parlando anche molto di Caraibi, di isole dei Caraibi, di isole tropicali, e certo colpisce semmai il fatto che, come dire, mentre possiamo immaginare che in un territorio indiano, dove non ci sono le fogne, dove non ci sono gli acquedotti, cioè noi non possiamo pensare all'India, che ha 1 miliardo di persone, come Nuova Delhi o Mumbai. L'India ha un territorio immenso, purtroppo estremamente sottosviluppato. E dunque, e quindi... come dire, purtroppo sarà per cinismo, magari uno può aspettarsi che, non essendoci certe strutture, quando c'è un'inondazione, un'alluvione, purtroppo ci sono le conseguenze che ci sono. Quello che colpisce, credo, un po' tutti noi è la nostra vulnerabilità anche davanti a un paese che dovrebbe essere all'avanguardia rispetto agli altri, sia per struttura, per organizzazione, per reazione a quelle che sono queste sfide della natura. E quindi il fatto che persino l'America finisca per soccombere, in qualche modo forse colpisce più l'immaginazione di tutti noi. Ecco, poi c'è un interesse economico, è chiaro che un impatto economico sugli Stati Uniti ha un impatto diverso di quello che può esserci sull'economia indiana. Uno può dire che questi sono ragionamenti cinici, però a un certo punto è inevitabile che che si vada a scegliere sulle cose che ci riguardano e che ci toccano più da vicino, credo. Paolo Corazzon, proprio per chiudere, abbiamo pochi secondi, come si danno i nomi a questi cicloni? Irma, Harvey, Katia? Questa è che a me importa molto. Allora, è l'Organizzazione Meteorologica Mondiale a stabilire, quindi ci sono degli elenchi prefissati con nomi in ordine alfabetico, sia maschili che femminili, e è utile questo per lanciare le allerte. In questo momento, ti dicevo prima, ci sono 3 uragani in quella zona. Se tu lanci l'allerta per Irma, si sa che è quello potente. Se diventa invece una sigla, è più difficile che le persone seguano con attenzione il percorso di questi uragani. Invece noi chiediamo da noi, sono inventati, assolutamente inutili e non autorizzati da nessuno, lo specifico. Benissimo, grazie Paolo Corazzon, ci sentiamo domani. Grazie Mario Pratero da New York. Ciao Mario, ciao Paolo. Grazie, ciao, ciao. Grazie a voi, buona serata. Mario, in realtà buongiorno, visto il fuso. Noi ci prendiamo questa piccola pausa di ricreazione e poi torniamo con gli altri argomenti. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Vi ricordo, prima di affrontare il prossimo tema, più di, diciamo, 40 minuti che siamo insieme, vi ricordo le notizie più importanti, che sono appunto l'uragano Irma di cui abbiamo appena parlato. Sono stati devastati i Caraibi, almeno una decina le vittime, ora il potente ciclone punta sulla Florida, stato di emergenza anche in North Carolina. E poi la bimba di 4 anni morta in ospedale, ne parleremo tra pochissimo. E poi sui vaccini, il Veneto sospende la moratoria di 2 anni, soddisfazione della ministra Lorenzin, però Zaia interpella il Consiglio di Stato. E appunto torniamo sul caso della bambina di 4 anni che è morta all'ospedale di Brescia lunedì dopo essere stata ricoverata prima a Portogruaro, poi a Trento. L'autopsia eseguita oggi ha confermato che Sofia è deceduta per encefalopatite malarica, cioè una complicanza legata alla malaria. Proseguono però intanto le indagini per capire come sia avvenuto questo contagio. Ieri qui Effetto Notte la virologa dell'ospedale Sacco di Milano, Gismondi, aveva fatto un po' l'ipotesi di una zanzara che avesse viaggiato con un bagaglio e adesso invece si dice che la bimba possa aver contratto la malattia forse durante le vacanze in campeggio a Bibione sulla costa veneta. Non è stato però dimostrato se il plasmodio, questo parassita che ha colpito Sofia, sia il medesimo delle 2 bambine che erano ricoverate nello stesso ospedale a Trento. Ci vuole ancora del tempo per appurarlo, come ci conferma la nostra Raffaella Calandra, no? Per quanto riguarda l'inchiesta, Raffaella. Ciao. Sì Roberta, ciao. Questi sono tutti elementi che poi saranno appunto acquisiti dagli atti delle inchieste sia di Brescia che di Trento, perché appunto da una parte l'autopsia, come accennavi, ha confermato che appunto quello che già si sapeva, cioè la morte per complicanze dovute alla malaria, ma soltanto tra 60 giorni ci sarà la relazione dei periti, quindi con tutti i dettagli, che sarà un elemento importante chiaramente come punto di partenza dell'indagine. Contemporaneamente però all'Istituto Superiore della Sanità stanno cercando, proprio con un esame che somiglia molto a quegli esami del DNA che si fanno in casi appunto di omicidio, di verificare, di ricostruire il ceppo appunto della parassita che ha infettato la bambina, per capire se effettivamente fosse lo stesso che aveva già contagiato quelle 2 bimbe di rientro dal Burkina Faso. Quello sarà un passaggio importante per poter poi ricostruire la catena e capire dove sia avvenuto questo contagio e in che modo. Contemporaneamente all'Istituto Superiore della Sanità sono state mandate squadre di specialisti, di entomologi, soprattutto nelle zone frequentate negli ultimi tempi dalla bimba, quindi come accennavi il campeggio di Bibione, ma anche un po' tutta quell'area, per capire se ci possa essere lì una zanzara che fosse stata vettore, diciamo, capace di trasportare la malaria, cosa che in realtà in Italia non succede dal dopoguerra, come ci hanno confermato all'Istituto Superiore della Sanità. Anzi, per paradosso, proprio ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva stabilito che l'intera Europa è malaria free, quindi senza malaria. Un caso c'è stato soltanto a Salonicco in Grecia un paio di anni fa. Detto questo, è vero anche che il cambiamento climatico, quindi un'estate così torrida, può aver favorito, come diceva favorito ieri un entomologo, il passaggio delle zanzare, perché invece è anomalo che anche l'eventualità di una zanzara portata in un bagaglio, in genere quelle vengono riscontrate esclusivamente nei dintorni dell'aeroporto e non a molti chilometri di distanza. Quindi l'ipotesi della zanzara autoctona in qualche modo ancora resiste. Bene, Raffaella, no, dico, adesso mancheranno ancora giorni, forse settimane, per arrivare alla conclusione, insomma, di questa inchiesta. Grazie intanto a Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, ciao. Ciao. Ciao, adesso abbiamo la viabilità. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E adesso parliamo di consumi, dei consumi degli italiani, perché proprio attraverso quello, lo sapete, che compriamo, che consumiamo, si ha una fotografia delle nostre tendenze, dei nostri cambiamenti, dei gusti, anche naturalmente della salute delle nostre tasche. In questi giorni ne avete sentito parlare, no? Dei dati dell'Istat piuttosto positivi, un po' tutti i media titolavano l'Istat vede rosa, perché la ripresa economica acquisterà velocità grazie a un positivo effetto contagio tra i diversi comparti. Che cosa ha scritto l'Istat in questi giorni, il nostro istituto di statistica? L'economia italiana accelera, sostenuta da una crescita diffusa tra i settori produttivi e dall'aumento dell'occupazione. E questo proprio in questa settimana, la scorsa settimana, ha confermato l'Istat che il PIL, per il PIL c'è un rialzo maggiore di questi sei anni. Naturalmente lo sappiamo che l'Italia purtroppo cresce molto lentamente e meno di tutti gli altri paesi europei, però un piccolo segnale positivo, e questo ovviamente si ripercuote anche sui consumi e si deduce anche dagli stessi consumi, no? Perché è finita la caccia agli sconti, ai discount, torna la qualità nel carrello degli italiani, e questo lo racconta il rapporto COP, lo certifica questo rapporto COP 2017, che come ogni anno prova, insomma, a scattare questa fotografia del nostro paese partendo proprio dal carrello della spesa. A chi ci dobbiamo rivolgere quindi per sapere che quali sono i nostri consumi, le nostre tendenze, che cosa c'è nel nostro carrello della spesa, se non la nostra Maria Luisa Pezzali. Cara Maria Luisa, ciao. Ciao Roberta, che piacere essere qui, e un saluto anche agli ascoltatori. Col suo programma Essere e Avere, tutte le domeniche alle 22, non lo perdete. Quindi questo rapporto COP ci dice che insomma la qualità migliora, evidentemente spendiamo meglio, spendiamo di più? Esattamente, innanzitutto conferma quello che dicevi poco fa Roberta, che malgrado tutto insomma la ripresa c'è, e quindi i consumi tengono, anzi crescono, più 1,2% il dato a chiusura 2017, ci dice appunto questo rapporto COP, che si concentra soprattutto ovviamente sul carrello della spesa, dove sono protagonisti i consumi alimentari, che crescono, pensa Roberta, di quasi il 3%, più 2,9%. I prodotti alimentari raccontano in modo più efficace di tanti altri prodotti come stanno cambiando le abitudini non solo di spesa ma anche di vita degli italiani. Sono consumi quelli alimentari di oggi che puntano soprattutto, come dicevi, a qualità e salutismo, quindi il bio, il free from tutti i prodotti, quindi senza questo, senza quello, attenti anche alle nostre intolleranze, quindi soprattutto senza glutine. A volte anche ci sono delle mode, possiamo dirlo, però... esattamente, anzi però... questo rapporto COP 2017 ce lo dice, ci dice che il carrello della spesa oggi è molto soggetto alle mode ed è molto social, è anche proprio soggetto al chiacchiericcio online, passa alle parola, mode, esatto, che possono... comprate questo, non comprate questo, è meglio quest'altro prodotto perché ha questo e non ha quest'altro. Comunque dicevamo, più qualità. Il 2017, dicono gli esperti della COP, è l'anno che certifica la fine del downgrading, così dicono gli esperti, della spesa, cioè quella spesa che puntava appunto all'affare, negli hard discount, la caccia allo sconto, esatto, invece si punta sempre di più sulla qualità. Pensa che il 70% dei consumatori italiani, ed è un dato che ci colloca fra i primi in Europa, è disposto a spendere di più per comprare prodotti alimentari di maggiore qualità. Quindi 7 su 10, esatto, una bella percentuale. E questo insomma certifica proprio anche questa svolta. I cibi cosiddetti terapeutici, superfoods si dice in gergo, cioè quelli che vantano appunto proprietà salutistiche. Si parla per esempio, avocado, mirtilli, no? Curcuma. lo zenzero spinti tantissimo. Poi anche qui, non so, così dicono i specialisti, esatto, nutrizionisti, lo zenzero, che hanno tante qualità, del metabolismo, quindi mettiamolo in tutte le bibite, in tutte le ricette, insomma. Questi cibi comunque valgono ormai il 10% del nostro carrello della spesa, sono numeri importanti e crescono più del doppio, quindi si parla di una crescita dell'8% dei prodotti tradizionali. Ho parlato di tutto questo, Roberto, se sei d'accordo lancerei una voce che ho raccolto appunto oggi alla conferenza stampa di COP. Albino Russo è il direttore dell'ufficio studi di COP, sentiamolo. Il cibo, ad esempio, per la prima volta dopo 10 anni vede crescere il valore del carrello della spesa degli italiani. Non accadeva da moltissimo tempo, è un ottimo segnale. Quali sono i prodotti che gli italiani mettono di più in questo carrello? Beh, sicuramente tutti i prodotti legati alla salute e al benessere. Il cibo è infatti terapia, i prodotti terapeutici, come li abbiamo chiamati, i superfoods, i prodotti della dieta SIRT, i prodotti della dieta mediterranea, crescono il doppio della media del carrello. Citiamo anche qualche dato che salta all'occhio: più 174 il latte senza lattosio, più 70 e qualcosa per cento per l'avocado piuttosto che per lo zenzero, insomma, esatto. Sono rivelatori questi numeri. Il dato sul latte ad alta digeribilità fa riferimento al prodotto fresco, che è una novità. Continuano a crescere i superfoods, continua a crescere lo zenzero, la curcuma, l'avocado diventa la nuova moda degli italiani, e a questo proposito il cibo è sempre più fashion, è sempre più estetica, rappresentazione di se stessi. L'hashtag food porn, ad esempio, è esploso nelle comunicazioni social degli italiani. Quindi confermava Maria Luisa Pezzali quello che dicevi tu prima, ma questi termini legati al cibo, fashion, food porn, poi food porn in che senso? Food di porn è questa esibizione del perché cibo. Perché c'è Masterchef, perché ci sono questa voglia in televisione di guardare, di curare il cibo, di capire anche proprio esteticamente come presentarlo. Sì, cioè, tutte queste immagini dei cibi che ormai insomma circolano in rete, prima di mangiarlo ovviamente si fotografa al ristorante, molti chef si sono anche arrabbiati, in Francia addirittura è stato vietato in certi casi l'uso del cellulare in questo senso. In conferenza stampa, Roberta, ti racconto un aneddoto, l'orario ce lo consente anche, si diceva più food porn meno porn per gli italiani, perché il rapporto certifica anche un calo del 10% del desiderio sessuale e un calo del 6% delle vendite di preservativi, di profilattici. Quindi si mangia di più e diciamo si fa meno l'amore, detto meno, per sintesi. Comunque anche meno vizi in generale, perché cala anche il consumo di alcolici e la vendita di sigarette. E questo è positivo. Sì, esatto, insomma c'è un equilibrio, ecco, che si va ricercando: più sport, più pratica sportiva, meno uso dell'auto, meno 8%, più uso della bicicletta speculare, più 8%. Poi ci consideriamo anche uno dei popoli, sono il popolo più sano al mondo, no? Quindi stiamo andando in questa direzione, mi sembra positivo. Grazie Maria Luisa Pezzani. Grazie a te. Ciao Luisa, saluto. Essere avere, ve lo ricordo, alle 22 ogni domenica.